Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Il nome corretto sarebbe Opuntia, ma tutti la conosciamo con un altro nome, il fico d'India, che sarà pure indiano, ma insomma cresce alla grande nel sud e nelle isole italiane e un po' ovunque dove il sole abbonda e l'acqua scarseggia. È lui il protagonista della puntata di questa sera, perché ho scoperto che è un po' come il maiale: non si butta nulla, o almeno questa sarebbe l'intenzione, a giudicare da alcune ricerche ormai in stato avanzato, che mirano a valorizzare tutti gli scarti di questa coltivazione. Naturalmente c'è il frutto e quello si mangia, ma poi ci sono le potature. Che fare con le pale, ovvero le foglie del fico d'India? Ebbene, all'Università di Palermo hanno messo a punto e brevettato un sistema per trasformarle in pannelli isolanti per l'edilizia. Ci spiega tutto il professor Antonio De Vecchi, docente di architettura tecnica dell'Università di Palermo. Buonasera De Vecchi. Buonasera. Senta, allora, ci descriva subito come funziona a grandi linee questo processo per trasformare le pale, quindi le foglie di fico d'India, in pannelli isolanti. Le pale, appunto, come lei accennava, derivano dalla potatura che viene effettuata mediamente ogni anno, 2 anni, nelle colture appunto di fico d'India che ci sono in tutta spazio, in buona parte della Sicilia. Il quantitativo che si ottiene è stimato in 20 tonnellate all'anno di pale. Per ogni ettaro di superficie coltivata, giusto? Per ogni ettaro di superficie coltivata. 100 metri per 100 metri, questa è la superficie di 100 metri per 100 metri. La pala così ottenuta attualmente costituisce un problema, perché tutto questo quantità di scarto è difficile da smaltire. Certo. Verrebbe invece recuperata e essiccata, sì? Previa processo di compattazione per estrarre la materia liquida, che a sua volta può essere utilizzata per altri tipi di prodotto che viene attualmente richiesto già nel campo della cosmetica specialmente. Okay. Quindi prendete queste pale di fico d'India, le spremete praticamente, tirate fuori questo liquido, quello che resta lo mettete a essiccare, così? A essiccare. E si ottiene un prodotto che è a base per lo più di materiale legnoso. Questo prodotto si può stimare mediamente nel 15% rispetto alla quantità totale. Quindi una quantità di trucioli di legno, legnosi, di 3 tonnellate. Per ogni ettaro, sempre di coltivazione, diciamo. Quindi 3 tonnellate di questi, diciamo, trucioli di pala di fico. E a questo punto che cosa fate? Così come in altri tipi di pannelli che già esistono nel mercato, questi trucioli dovrebbero venire assemblati con un legante, che può essere di varia natura, a livello industriale, costituire pannelli isolanti con alte prestazioni isolanti. Insomma, quindi comprimete questo trucciolame con un po' di collante di qualche tipo. È una lavorazione abbastanza standard, direi, abbastanza tradizionale, sommato. È una lavorazione standard che non richiede un particolare impianto industriale diverso da quelli che attualmente esistono. E questo è un fatto molto positivo di solito, no? Sì. Ecco, senta, estesa la superficie coltivata a fico d'India, insomma, c'è molta disponibilità di materia prima? Secondo una stima di qualche anno fa, in Sicilia abbiamo una quantità di superficie coltivata di 2.500 ettari di coltura specializzata e 25.000 ettari di coltura promiscua. Ah, quindi tantissimo, insomma, mi sta dicendo. Tantissimo, sì, tantissimo. Siamo tra i primi produttori nel mondo. La Sicilia, considerando anche un po' la Calabria, la Puglia e la Sardegna, che producono anch'essi questo tipo di piante. Insomma, quindi è una coltivazione che abbonda nel sud Italia e probabilmente anche da qualche parte nel Nord Africa, realisticamente. Sì. Insomma, per dire che ce n'è da fare. Grazie De Vecchi. Grazie a lei. Beh, dicevo all'inizio che il fico d'India potrebbe diventare un po' come il maiale. Infatti c'è un gruppo di imprenditori agricoli siciliani che, con l'aiuto del CIB, ovvero il Comitato Italiano Biogas, sta lavorando in questo periodo anche alla possibilità di utilizzare le potature di fico d'India, quindi le famose pale, per produrre anche biogas e digestato, che oltre a essere un buon fertilizzante ha anche un alto contenuto di carbonio e perciò potrebbe contribuire a rigenerare i suoli sottoposti a fenomeni di erosione come quelli al sud. Pare che il potenziale per questa produzione ci sia e sia anzi di tutto rispetto. Insomma, cibo, materiali da costruzione ed energia da una sola pianta. È un ragionamento che si sta facendo, vedremo se conduce da qualche parte. Quel che è sicuro invece è che solo introducendo innovazione nelle filiere agricole queste riusciranno a garantirsi un futuro sostenibile. Certo che se poi si concedono per anni sussidi agli agricoltori per tenere incolti i terreni, non stupiamoci se gli innovatori sono la minoranza. Ci lasciamo qui, vi auguro buon fine settimana, ci risentiamo lunedì.